Ciao a tutti, io sono Nicola e benvenuti a Licenza Media. Forse per questo primo episodio di questo incredibile podcast sarebbe il caso di spiegarvi un po' cos'è Licenza Media, forse cosa vorrebbe essere. Licenza Media potrebbe essere considerata una sorta di osservatorio sui media, che nasce però da due stimoli differenti. Il primo risiede nel media stesso. Ciò che personalmente mi incuriosiva molto in questo progetto era questa sorta di multimedialità, forse sarebbe giusto chiamarla intermedialità, che si viene a creare nel momento in cui si discute di un determinato media attraverso un mezzo di comunicazione completamente differente. Licenza Media dunque affronterà temi diversi della comunicazione mediatica, dal cinema, alla televisione, dalla musica, al giornalismo, sempre cercando di sfruttare internet ed il podcast come mezzi di divulgazione. La seconda idea che sta dietro questo programma si riflette nella struttura stessa di questo podcast. Licenza Media non vuole osservare i media dall'esterno, non vuole avventurarsi in analisi sociali e sociologiche che non credo gli competano. Il nostro obiettivo è quello di cercare di rendere i mass media in qualche modo osservatori di loro stessi. Per questo Licenza Media si organizzerà principalmente in intervista. Mi piacerebbe chiamarle chiacchierate, che intercorreranno con i protagonisti della comunicazione mediatica, nazionale e spero non. Questo dunque è quello che Licenza Media vorrebbe essere. Non so sinceramente se è quello che sarà, diciamo che ci proviamo. Vi ricordo solo un paio di cose prima di iniziare questo primo episodio. Il sito dove potete trovare costantemente gli episodi di Licenza Media è licenziamedia.blogspot.com. Se volete comunicare con me, farmi sapere cosa ne pensate di Licenza Media, in che modo pensate che Licenza Media possa migliorare e allo stesso tempo, se avete voglia di collaborare a questo progetto, la mail a cui contattarmi è licenziamedia@gmail.com. Io non ho altro da dirvi, spero che il programma vi piaccia, spero che il programma piaccia anche a me. E iniziamo! Eccoci dunque ad iniziare questo primo episodio di Licenza Media. E per questo episodio ho deciso di trattare tre grandi argomenti. Parleremo di videoclip musicali e ne parleremo in una piacevolissima intervista con Stefano Ferrio, docente presso l'Università di Padova di semiologia degli audiovisivi e dallo stesso tempo uno dei più grandi conoscitori italiani dell'arte del videoclip. Subito dopo parleremo di un argomento che a me è estremamente molto caro. Parleremo di intrattenimento mediatico ed in particolar modo di serialità televisiva. Ne parleremo con in assoluto quello che forse può essere considerato il più grande conoscitore di materia in Italia. E ne parleremo quindi con Giusto Toni, direttore di Canal Jimmy, uno dei più importanti e longevi canali satellitari tematici dedicati soprattutto alla serialità televisiva. E inizieremo però a parlare di un altro tema che mi stava molto a cuore. Parleremo di internet e parleremo di Wikipedia. Wikipedia, per chi non abbia vissuto in una grotta gli ultimi 3 anni, non è certamente una novità. Wikipedia è un'enciclopedia libera, presente sul web, caratterizzata per 1000 aspetti diversi, per essere multilingue e per essere soprattutto a contenuto libero, redatta in modo assolutamente collaborativo da volontari che assiduamente, in maniera costante, contribuiscono a rendere Wikipedia probabilmente ad oggi la più grande enciclopedia esistente. Ecco a voi quindi un'intervista con Frieda Brioschi, presidentessa di Wikipedia Italia, che ci spiegherà un po' come Wikipedia funziona e perché Wikipedia è così tanto rivoluzionaria. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. Ciao Frieda, benvenuta a Licenza Media. Grazie. Allora, come ho accennato prima, tu lavori con Wikipedia puoi introdurre ai pochi che ancora non conoscono cos'è Wikipedia e qual è in breve la sua storia? Wikipedia è un'enciclopedia online libera a cui tutti possono partecipare. Noi parliamo di enciclopedia libera perché è gratis, perché appunto tutti quanti possono partecipare, e poi perché viene rilasciata con una licenza particolare per cui tutti possono riutilizzare i contenuti di Wikipedia usando semplicemente pochi accorgimenti. Il fatto che tutti possano partecipare significa veramente tutti. Chiunque abbia una connessione a internet e arrivi sul sito senza bisogno di registrazione può iniziare a scrivere oppure a correggere quello che è già presente oppure a partecipare alle discussioni per gestire Wikipedia. Il progetto è particolare perché non ha un comitato di redazione, non ha un capo, non ha una struttura gerarchica insomma al suo interno, ma ha semplicemente una comunità fatta da tutti gli utenti che partecipano, che prende tutte le decisioni di cui c'è bisogno, insomma, sia dal punto di vista di nuovi standard per le nostre voci, piuttosto che decidere quali voci vanno tenute sull'enciclopedia, perché lo scopo appunto è costruire un'enciclopedia per cui c'è un minimo vaglio sulle voci, sul fatto che siano ritenute o meno enciclopediche. Non si tiene tutto certo. L'uscibile umano su Wikipedia. Quello che ti chiedo è una domanda che forse può porsi direttamente qualsiasi persona che ascolta queste cose. Nel senso, si fa un gran parlare ultimamente di tutto quello che è software libero, open source, eccetera. Sì. Una persona che magari ne conosce poco, la prima domanda che si può fare è: ma chi fa queste cose? Che ritorno ha? Nel senso, perché una persona è spinta a fare una cosa del genere? Conscia del fatto che comunque non c'è praticamente nessun ritorno, almeno materiale. Tu che risposta puoi darti o puoi dare a questa cosa? Per passione. Ok. Non c'è nessun'altra risposta. In realtà perché per tutti noi è un hobby, ma un hobby di quelli che prendono poi molto seriamente. Abbiamo, in maniera più o meno scherzosa, abbiamo una parte di Wikipedia che non sono le voci, ma è la parte dedicata alla comunità, in cui abbiamo anche una serie di voci che riguardano la wikidipendenza, per cui abbiamo un test per cui si misura quanto le persone rimangono su Wikipedia e quanto sono addicted al progetto. Non abbiamo una risposta su perché uno lo fa, perché ci piace, perché ci diverte, perché in fondo è interessante. Direi che è una risposta sufficiente. mi offri un collegamento meraviglioso nel parlare appunto della comunità che crea Wikipedia, basandosi comunque sulla collaborazione di più persone. Credo che il concetto di comunità all'interno di Wikipedia sia assolutamente imprescindibile da ciò che proprio Wikipedia è, giusto? Ma c'è un eterno dibattito in corso all'interno della comunità anche su questa cosa, in realtà, perché ogni tanto quando hai una comunità molto grande, e Wikipedia è una comunità molto grande, perché quella italiana conta qualcosa come più di 100.000 utenti registrati. Ora, il numero non è particolarmente significativo perché non rappresenta gli utenti che realmente partecipano al progetto, però ti dà l'idea che comunque siano tante persone. Quando hai tante persone, hai dei momenti all'interno della crescita del progetto in cui la comunità tende a predominare sullo scopo del progetto, che è appunto scrivere l'enciclopedia, per cui ci sono dei momenti di crescita e di espansione nella comunità, per cui la stesura delle voci si arresta un attimo e si cerca di porre ordine nella comunità, anche perché essendo una comunità piatta, non avendo un capo, non avendo una gerarchia verticale, ci sono dei momenti in cui si discute di tutto, di tutti. E poi qualcuno si ferma e dice: ma è più importante la comunità? No, è più importante l'enciclopedia. Per cui è un po' come il vecchio dilemma: è arrivato prima l'uovo o la gallina. Chiaro. Un'altra cosa che volevo chiederti è: leggevo in qualche dove, che chiaramente adesso non ricorderò mai, che quello che probabilmente è colui che Wikipedia l'ha fondata parla di Wikipedia come un risultato da seguire, cioè quello di creare la più grande enciclopedia mai stata realizzata. Credi questo sia un obiettivo realizzabile? Ma assolutamente, anche perché in questo momento francamente è già l'enciclopedia più grande al mondo. Anche se tu prendi in considerazione tutte le edizioni di Wikipedia, che sono più di 200 nelle varie lingue, e prendi tutti gli articoli, in questo momento abbiamo più di 3 milioni e mezzo di voci in tutte le lingue. per cui voglio dire è un numero difficilmente superabile. Un'enciclopedia come la Treccani credo abbia meno di 50.000 voci, un'enciclopedia come la Britannica viaggia nell'ordine delle 100-200.000, adesso i numeri esatti non li so, però comunque siamo proprio a ordine di grandezza molto diversi. Ok, allora io adesso vado avanti, faccio un po' l'avvocato del diavolo e parlo di quelle che possono essere le critiche che vengono fatte a Wikipedia, che sono quelle di una certa possibilità di carenza di qualità e forse anche un certo senso di faziosità, nel senso, andando sullo specifico, stando in mano la definizione enciclopedica di una voce, in mano a una sola persona, comunque a un gruppo di persone, è chiaro che se ad esempio in Italia un certo tema sta più caro al pubblico italiano o comunque l'utente di Wikipedia italiano che ad altri, si rischia di creare una voce più tendente alla faziosità. Almeno queste sono le critiche che credo vi vengano rivolte, insomma, quindi quella di una poca affidabilità. Allora, dal punto di vista della faziosità, nego, nel senso, uno dei concetti chiave di Wikipedia, una delle due regole, è che noi cerchiamo di presentare su tutte le voci un punto di vista neutrale, per cui noi non ci scriviamo da nessuna parte. Quello che capita, assolutamente, che quando le voci nascono non necessariamente siano neutrali. In tal caso quello che facciamo è ci appiccichiamo sopra un avviso e diciamo attenzione, questa voce presenta un punto di vista neutrale, per cui schierata da qualche parte noi ci stiamo lavorando, in modo che il lettore sia consapevole di che cosa si trova davanti e di che cosa noi reputiamo sia ancora quella voce, come un work in progress. Siccome le nostre voci vengono scritte e vanno online immediatamente, c'è sempre bisogno di avvisare il lettore di che cosa si trova di fronte, però è difficile che le nostre voci siano di parte. Ti dico, succede periodicamente su voci legate all'attualità, questo è sicuro, e non devo negare che siano i nostri politici uno dei temi più controversi, perché la gente passa e scambia quella che vuole essere una voce enciclopedica che racconta fatti, come un muro del pianto in cui venire a raccontare che cosa pensano di questi signori. Wikipedia comunque è di sicuro la parte più grossa, ma è solo uno dei progetti della Wikimedia Foundation, giusto? Esattamente, sì. Gli altri progetti di Wikipedia e comunque lo spirito che invade questi progetti, che comunque presumo sia lo stesso che caratterizza Wikipedia. Assolutamente sì, perché anche gli altri sono tutti progetti a cui possono partecipare tutti quanti e che vengono rilasciati con una licenza libera. I progetti della Wikimedia Foundation, l'associazione americana che è diciamo l'owner di Wikipedia, sono 9 e comprendono un dizionario, un progetto per scrivere nei manuali e dei libri di testo che è Wikibooks, una raccolta di citazioni che è Wikiquote, poi abbiamo una biblioteca che contiene documenti di pubblico dominio o rilasciati in GFDL che è Wikisource, poi abbiamo un catalogo delle specie viventi che è Wikispecie, un notiziario che è scritto dai cittadini della rete che è Wikinotizie, è un enorme repository di materiale multimediale che contiene principalmente immagini ma anche filmati e musica che è Commons, e ultimamente è stato attivato un nuovo progetto che è Wikiversity, per un contenitore di risorse per le attività didattiche. Ti chiedo l'ultima cosa, come vedi il futuro di Wikipedia da qui a poco tempo e come credi che una persona che scopre ora per la prima volta l'esistenza di Wikipedia possa contribuire alla sua esistenza e al suo sviluppo? Allora, il futuro lo vedo difficile ma stimolante, perché l'attenzione principale in questo momento è da parte di tutti, ma anche della stessa comunità, sulla qualità dei nostri contenuti. Per cui dobbiamo studiare a fondo come fare a migliorare e per certi versi garantirla, almeno minimamente. Per quanto riguarda chi volesse contribuire a Wikipedia, il metodo è quello standard, si arriva sul sito e si inizia a curiosare e poi si comincia, anche solo correggendo una virgola o anche solo aggiungendo un link per chiedere la scrittura di una nuova voce, e poi essendo un minimo coraggioso, in fondo il progetto è facile per chi inizia. Certo. Basta aver voglia di scrivere. Bene, speriamo che molti abbiano voglia di scrivere. Ti ringrazio molto, grazie per essere intervenuta e buona fortuna a te e a tutta l'associazione di Wikimedia. Grazie. Ciao. Ciao. Ringraziamo dunque Frida per essere stata qui con noi e per averci parlato un po' di Wikipedia. Non credo sia necessario, ma diciamolo un po' per il proforma. Se qualcuno volesse raggiungere Wikipedia, l'indirizzo è www.wikipedia.org. Da lì si può selezionare la lingua ed avere accesso a tutte le varie versioni di Wikipedia. E l'argomento chiaramente è incredibilmente vasto. Spero che questa intervista sia servita un po' per farvi capire non solo cos'è Wikipedia, ma chi sta dietro Wikipedia e quanta passione viene impiegata per sviluppare questo incredibile progetto. Cambiamo un argomento e parliamo di videoclip. Mi interessava particolarmente parlare di questa forma di comunicazione audiovisiva in quanto forse in qualche modo bistrattata di nuovo nel corso della sua storia. Il videoclip, per la sua forma breve e in qualche modo prettamente commerciale, infatti non dimentichiamoci che il videoclip è prima di tutto un veicolo di promozione, non ha forse mai goduto di quel riconoscimento che gli spetta. Credo che il videoclip oggi abbia raggiunto un tale livello qualitativo che non lo pone assolutamente ad un livello inferiore rispetto ai suoi fratellini più grandi, vado a pensare al mondo del cinema o a quello della stessa televisione. Credo che questa evoluzione sia dovuta a diversi aspetti. Certamente è cambiata la maniera di approcciarsi al videoclip, ma allo stesso tempo è assolutamente chiaro che la qualità di questa forma audiovisiva è aumentata in maniera esponenziale. Basti pensare a quello che è questo continuo interscambio tra registi cinematografici anche acclamati che provano a dedicarsi al videoclip e allo stesso tempo giovani registi che, dopo aver iniziato ad interfacciarsi con la realtà audiovisiva attraverso il videoclip, sono ora registi acclamati ad Hollywood e non solo, vado a pensare ai giovani Michel Gondry o Spike Jonze, che iniziando con il videoclip ora hanno prodotto film di estrema qualità. Parleremo di tutto questo e non solo con Stefano Ferrio. Stefano Ferrio è docente all'Università di Padova in semiologia degli audiovisivi, è coinvolto in mille altri progetti, scrive per il Gazzettino di Vicenza, si dedica alla scrittura di narrativa di genere, in particolare di gialli, ma più importante per noi è un assoluto esperto di videoclip e da tempo si occupa con passione ad un ambizioso progetto chiamato Arca del Videoclip, che consiste nel cercare di assemblare un archivio del videoclip italiano che purtroppo nel nostro paese è sempre venuto a mancare. Ecco a voi dunque l'intervista a Stefano Ferri. Salve professor Ferrio e benvenuto a Licenza Media. Salve ragazzi. Avevo intenzione di chiederle per iniziare una breve definizione di quello che è videoclip e di ciò che rappresenta. Canonicamente il videoclip è una forma di racconto breve, un equivalente di quello che una volta e attualmente continua a chiamarsi cortometraggio, lunghezza solo che è girato in video ed è a questa destinazione specifica per il mercato musicale e per la sua promozione in televisione. Se dovessimo cercare di risalire a degli antenati del videoclip, dove potremmo andare a parare? Potremmo andare a parare nella preistoria della visione, perché di videoclip, di antenati di videoclip si parla addirittura nei primi secoli dopo Cristo, quando in alcune chiese romaniche venivano fatti scorrere dei pannelli esplicativi di alcune storie della cristianità accompagnati da un sottofondo musicale nella totale oscurità. Questa specie di antenato della lanterna magica era sui generis una sorta di videoclip. E poi indubbiamente il videoclip dal punto di vista dei suoi prodromi lo ritroviamo in tutta la storia del pre-cinema, e cioè in quella storia molto fantasmagorica immaginifica, ricca di episodi, che racconta di questi ambulanti che giravano al mondo. Nella vicina Bassano c'era la famiglia Remondini, per esempio, che era molto famosa per questa sua attività, che girava al mondo portando in giro le sue storie, sempre che venivano proposte attraverso questi disegni, queste immagini che scorrevano una dopo l'altra e che spesso venivano accompagnate a mo' di cantastorie proprio dall'accompagnamento musicale. Quindi è una forma che è stata una gestazione che è stata covata a lungo nella storia del precinema e poi in quella del cinema. Bene, cerchiamo di arrivare a dei giorni a noi un po' più vicini. Molti certo. tendono ad attribuire il concepimento del primo video musicale ai Queen, se non sbaglio, nel 75 con Bohemian Rhapsody, per quanto già prima nel mondo della televisione ci fossero molte esibizioni live di gruppi musicali, soprattutto a livello promozionale, se non sbaglio, giusto? Infatti, collegandomi a quanto dicevo prima, tutta la storia del cinema, dall'invenzione dei Lumière fino alla nascita dei videoclip, continua a proporre forme che anticipano, che in qualche modo profetizzano l'avvento dei videoclip. Tutto il cinema muto, per esempio, è costellato da grandi episodi di storia musicale, perché questi film muti dal punto di vista del dialogo erano invece molto sonori dal punto di vista musicale e venivano realizzate apposite partiture che accompagnavano la visione del film in diretta in sala, per cui ai distributori veniva consegnato da una parte la pizza con la pellicola e dall'altra una sorta di canovaccio spartito dove il rumorista, suonatore, musicista di sala era chiamato ad accompagnare la visione con suoni e rumori. E quindi questo rapporto suono-immagine è molto forte all'interno del muto, poi continua anche con l'avvento del sonoro attraverso la colonna sonora, si moltiplica, germina in infinite proliferazioni con l'avvento della televisione, per cui abbiamo in Francia negli anni 50 l'avvento di questo straordinario antenato del videoclip che si chiama Scopiton, e che era appunto una specie di mega jukebox dove invece di mandare semplicemente in onda il disco a 45 giri si vedevano le immagini dei cantanti e degli interpreti. E poi con l'avvento del pop, del rock, naturalmente le forme musicali moltiplicano la loro presenza nei canali televisivi, finché non può essere diversamente, a un certo punto, grazie all'intuizione di Freddie Mercury, che per non eseguire in playback Bohemian Rhapsody disse: non vogliamo fare la parte dei buffoni che cantano in playback, perché tanto poi con tutte le nostre sovraincisioni vocali finiremo a presentare dei pagliacci, costruiamo qualcosa ad hoc, un filmato ad hoc. Questo filmato sortì l'effetto di moltiplicare all'infinito le vendite di quel disco, ed ecco per cui ed ecco perché la nascita del videoclip è segnata proprio da Bohemian Rhapsody, perché Bohemian Rhapsody, a differenza di tutti i precedenti, è un videoclip pensato espressamente per la promozione di quel disco, e in effetti è un prodotto che poi servì in modo lampante non solo alla promozione di quel disco, ma addirittura al lancio internazionale del gruppo Queen. Certamente, per questo discorso credo sia utile approfondire come il videoclip si relaziona all'artista, quindi al corpo dell'artista, e mi riferisco particolarmente a come nella storia del videoclip sia forse un po' cambiata il modo di produrre il videoclip, quindi partendo da un videoclip puramente non narrativo che in genere tendeva a riprendere esibizioni tendenzialmente live del gruppo musicale, fino ad arrivare a tutto un mondo di videoclip piuttosto recenti che possono essere certamente considerati delle opere narrative a sé stanti. Sì, guarda, recentemente uno dei più bei video di Subsonica di una canzone in cui loro hanno espressamente chiesto di non apparire nelle immagini, e questo segna un po' il cammino che c'è stato da quel 1975 ad oggi. Indubbiamente una grande percentuale di videoclip sono strettamente legati al corpo del musicista, alla sua figura corporea, alla sua presenza iconica di superstar che deve essere in qualche modo promozionata, deve essere in qualche modo lanciata sul mercato. Però è altrettanto vero che l'abilità dei grandi videomaker e dei musicisti che con questi videomaker interagiscono consiste proprio nello smarcare il prodotto da questa convenzione, per cui per esempio per parlare di videoclip italiani i recenti prodotti di Luca Carboni sono molto interessanti da questo punto di vista, perché seguendo un vero e proprio filone tipico di videoclip, Carboni ha costruito i suoi clip inserendoli in cartoni animati, dove quindi questa figura del corpo dell'artista viene trasformata in icona animata, e quindi c'è tutto un processo di lavoro e di intervento su questa figura iconica dell'artista. Un po' come i Gorillaz, che la loro figura corporea hanno cercato di abolire in qualsiasi forma. Esatto, sicuramente quello che hanno fatto i Gorillaz è uno degli episodi, dei capitoli più interessanti e anche più decisivi nella storia recente dei videoclip. Bene, grazie mille per essere intervenuto a Licenza Media. Le faccio un'ultima domanda che può essere quasi un gioco. Le chiedo quali sono i suoi 5 videoclip preferiti. O me ne faccia 3, come vuole lei. È una domanda. Sicuramente io sono molto affezionata a Take On Me degli A-ha, perché è un video storico dove per la prima volta viene intensivamente trasformata la figura degli artisti, questo gruppo norvegese, che appunto nel 1985 con un regista destinato poi ad avere un discreto successo, Steve Barron, produce questo Take On Me, e sicuramente è un video che ha fatto storia e tuttora quando anche i ragazzi che non lo conoscono lo vedono ne rimangono folgorati. Direi che sicuramente, anche se indubbiamente Sui Generis non possiamo esimerci da un omaggio a Thriller di Michael Jackson con la regia di John Landis, perché sicuramente Sui Generis, perché la durata in realtà è superiore a quella di un normale videoclip. Su 15 minuti penso, giusto? Esatto, però è anche godibile in versione ridotta, ed è sicuramente un video epocale che ha, sulla cui nascita e sul cui lancio si fonda tutta la storia della videomusica. Poi io direi che sicuramente ci si trova un po' spaesati a dover fare delle scelte, ma andando sempre nei primordi direi che Slave to the Rhythm di Grace Jones è un altro grandissimo video realizzato negli anni 80 da un regista francese di cui in questo momento mi sfugge il nome, perché appunto la storia del videoclip è fatta anche di questi lapsus, ma il video è veramente straordinario. Bene, la ringrazio ancora, speriamo di sentirci presto e la saluto. Grazie Nicola, arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie ancora a Stefano Ferio per questa piacevolissima intervista che reputo veramente molto interessante. Per tutti coloro i quali volessero conoscere meglio il professor Ferio, vi segnalo il suo sito www.stefanoferrio.com. Personalmente vi consiglio anche l'ultimo libro scritto da Stefano Ferio, intitolato Il profumo del diavolo, edito da Marsiglio nel 2004, se non mi sbaglio, forse il 2005. Assolutamente un giallo come va fatto, almeno secondo me. È giunto invece ora il momento dell'ultima intervista di questo primo episodio di Licenza Media. Il tema che andremo a trattare è un tema che mi sta veramente molto a cuore. Parleremo di serialità televisiva. Sono da sempre un grandissimo appassionato di tutto quello che l'industria culturale ha prodotto nel campo della serialità, dai tempi di Dickens, passando per il feuilleton e via dicendo. Sono sempre stato molto attratto da tutta quanta la narrativa episodica, e senza paura e conscio di poter ricevere quintali di insulti, mi piace definire la serialità televisiva attuale, almeno quella fatta bene, una sorta di feuilleton dei giorni nostri, una sorta di Charles Dickens dei giorni nostri. Per approfondire questo tema ho deciso di intervistare Giusto Toni. Giusto Toni è il direttore di Canal Jimmy, uno dei più importanti canali tematici italiani, addirittura uno dei primissimi canali tematici italiani. La sua prima messa in onda risale al 1997, si parlava ancora del bouquet Telepiù, e si è subito contraddistinto per la sua incredibile capacità di andare a riscovare nel passato tutte quante quelle che erano le icone degli anni 60, degli anni 70, senza però essere ciechi di fronte a tutto quello che la televisione mondiale riesce ad offrire. Jimmy si è quindi sempre posto come un grande punto di riferimento per tutti gli appassionati di serialità televisiva, offrendo agli spettatori italiani serie di dubbia qualità sia dal passato. Vado a pensare alle riproposizioni di serie assolutamente cult come Spazio 1999, Il Prigioniero, per passare a produzioni televisive un po' meno distanti da noi. Vado a pensare alla riproposizione per la prima volta su televisione satellitare dei Segreti di Twin Peaks, di altre grandissime serie degli anni 80 e 90 come NYPD, Picket Fences, potrei fare un elenco assolutamente lunghissimo, comunque allo stesso tempo anche offrendo delle grandissime serie contemporanee, dalle produzioni americane su HBO come Carnival, lo stesso Sex and the City, con molta attenzione a tutto quello che è la produzione inglese, soprattutto quella targata BBC. Non voglio farvi perdere altro tempo perché l'intervista è davvero molto interessante, davvero molto lunga. Credo che probabilmente in un prossimo episodio di Licenza Media ci sarà spazio per una sorta di seguito a questa intervista, visto che l'intervista era davvero davvero davvero molto lunga e non riuscivo a metterlo tutto quanto in questo episodio. Ecco quindi Licenza Media, intervista Giusto Toni. Buonasera Giusto, benvenuto a Licenza Media. Grazie Nicola, grazie a tutti. Volevo giusto iniziare ad introdurre appunto cos'è la serialità televisiva, quando nasce e in che maniera si sviluppa. Beh, dunque la serialità nasce non nella televisione ma nasce al cinema con questi film della durata di mezz'ora, un'ora, che nascono diciamo negli anni 30 come riempitivo o come extra diciamo fra uno spettacolo e l'altro, e generano le prime serie che sono i Flash Gordon, i Dick Tracy, Superman eccetera. E il suo sviluppo vero in televisione, nel senso, noi per serie poi diamo sempre un'accezione più di, arriviamo più al dramma o più alla sitcom. In realtà la serialità nasce con le soap e con gli spettacoli della televisione americana, che sono degli spettacoli in studio di cui oggi i grandi eredi sono il David Letterman Show, per farne un esempio. E anche noi in Italia abbiamo avuto la nostra tradizione di produzioni seriali, insomma alcune delle quali fanno parte ormai della memoria collettiva nel nostro paese, dalla Biblioteca di Studio 1 a, cito quella che secondo me è la serie per eccellenza e la forgiatrice dell'unità, della vera unità culturale del nostro paese, che non è mai troppo tardi, del maestro Manzi. Un grosso precursore della serialità televisiva credo tra l'altro possa essere ritenuto la radio. Beh certo, perché la televisione poi in realtà nasce in qualche modo dall'esperienza, cioè chi ha inventato e chi ha fatto la televisione nei primi anni veniva dall'esperienza della radio, dove la serialità, che ancora oggi per esempio soprattutto su, mi pare, Rai 2, insomma, ancora possibile sentire gli sceneggiati a puntate. Diciamo che su tutti i canali americani c'erano serie infinite, in alcuni casi diverse centinaia di puntate, dove si cimentavano personaggi che poi divennero personaggi importanti della storia del cinema e della televisione. Ricordiamo uno per tutti, Orson Welles, tanto per non fare nomi, ecco. Esatto. Il telefilm credo in generale sia uno dei mondi più vasti che si può affrontare all'interno delle varie forme di intrattenimento mediatico. Crede che esista, soprattutto agli albori della nascita della serialità televisiva, un genere che più di altri può aver favorito questo sviluppo? Beh, dunque, credo, se andiamo ad analizzare la televisione americana, che è stato un po' il bozzolo da cui sono nate poi tutte le varie farfalline e farfallone, in quel momento la serialità nasceva dall'esperienza della radio e da quella del cinema, quindi i due elementi più importanti nella fase iniziale sono stati quelli, diciamo, delle serie crime e delle serie western. Western azzeccato. Come? Ci ho azzeccato, ho detto. Sì. No, le serie western e le serie crime erano, cioè, appunto, l'esperienza in qualche modo che veniva da Dick Tracy e l'esperienza di tutta la serialità dei comic book, dei pulp magazine, che veniva, non dimentichiamoci la fantascienza, perché alcune delle prime serie assolutamente fantastiche della televisione americana furono serie di fantascienza realizzate con mezzi a dir poco imbarazzanti. Sì, se andiamo anche a vedere, credo, tutta quanta la narrativa fantascientifica di quegli anni, tipo i vari Tales from the Crypt, eccetera. Sì, sì, perché era legata alla, proprio poi a questi magazine, a questi Astounding piuttosto che Wonder Tales, eccetera. E diciamo che la novità consentiva di poter realizzare delle, che oggi non verrebbero neanche chiamate delle serie, diciamo, delle sorte di sceneggiati, in molti casi trasmessi addirittura in diretta, con dei mezzi che oggi sono assolutamente, come dire, sono veramente divertenti da vedere, e sì, poter concepire che la gente potesse essere affascinata da dei sistemi produttivi così elementari. Insomma, un po' l'effetto che si ha oggi quando si rivede Belfagor, il fantasma del Louvre, che per la mia generazione è stata un incubo e non ci ha fatto dormire per non so quante notti, rivisto oggi che si vede il filo sul carrellino che tira il fantasma, uno dice, ma com'è possibile? Eppure era possibile, perché in quel contesto culturale la novità era talmente forte e riusciva a catturare talmente l'attenzione che l'aspetto produttivo passava in secondo piano. E poi bisogna riconoscere che in quel periodo gli autori della radio erano dei grandi autori e trasferitisi sulla televisione riuscivano a creare delle grandi storie. Abbiamo visto come la serie TV in qualche maniera, soprattutto appunto nella sua accezione televisiva, nasce negli Stati Uniti negli anni 50 e si sviluppa fortemente anche in Inghilterra con gli anni 60. Lei crede che, al di là di una forte influenza economica in queste produzioni, ci sia qualche tipo di aspetto culturale che ha favorito questo sviluppo negli stati anglosassoni? Ah, dunque, sì, sicuramente c'era una tradizione di tutta la parte, diciamo, di carta stampata. Negli Stati Uniti venivano stampati, credo, adesso non ricordo, cito a memoria, una cosa tipo 170 settimanali, che andavano dall'avventura alla fantascienza, i cosiddetti pulp magazine, che erano fatti di storie a puntate, racconti a puntate. C'era un'alfabetizzazione, questo forse più in Inghilterra che negli Stati Uniti, molto elevata, cosa che purtroppo all'Italia del primo dopoguerra era un po' mancata. Certo. Come dicevo prima, ridendo, ma non ridevo più di tanto, chi ha unito culturalmente l'Italia è stato il maestro Manzico, non è mai troppo tardi, perché ricordiamoci che alla fine della guerra l'Italia era divisa in regioni culturalmente così diverse che più delle volte non si riuscivano a capire, e mancava una tradizione, se non locale, di questi... come dire, della diffusione del romanzo d'appendice, di questi pulp magazine, che in Italia poi è stata presa, secondo me, ovviamente dal fumetto, che in Italia ha avuto un altro ruolo determinante di alfabetizzazione. Certo. Io parlo ovviamente di Tex, Zagor, pensando anche solo al Corriere, certo, dei Piccoli, penso, giusto? Assolutamente, hai pienamente ragione, Corriere dei Piccoli, Vittorioso, eccetera. Quindi è mancata, secondo me, questo elemento di alfabetizzazione a priori, e quindi la televisione, anche perché da noi è arrivata un po' dopo anche su questo. Difatti la serialità in Italia non è arrivata immediatamente con la nascita della televisione, poi dopo ha prodotto cioè, però è sempre mancata quella serialità portata all'eccesso, che per esempio tu citavi giustamente l'Inghilterra. In Inghilterra ci sono serie come Coronation Street, che credo siano alla 12.000esima puntata, sì, dove generazioni di attori sono morti recitando la serie. Penso anche abbondanza negli Stati Uniti, che anche lì. Sì, qui è sempre mancata questa serialità all'estremo. C'era la nuova del Corsaro Nero, i ragazzi di Padre Tobia, Padre Brown con Renato Raschel, sì, Nero Wolfo con. Giusto, con, sì, Tino Bozzelli, però erano 15 puntate, 20 puntate, ecco, ed era trattato, esatto, lo sceneggiato aveva un trattamento più di tipo teatrale, che stava forse più nella nostra. E vado solo a pensare, comunque, non troppo tempo fa, a Lynch con Twin Peaks, vado a pensare a tutti i film tratti le serie TV tratte da film agli albori, tipo MASH, oppure i telefilm riversati in pellicola cinematografica, come di recente Miliardi di serie, vado a pensare a Charlie's Angels, a Starsky Dutch, eccetera. Credo però che comunque il telefilm sia anche vittima di un certo tipo di ostracismo, in quanto considerata sempre forma breve e soprattutto dedicata a una cultura popolare che di solito sappiamo benissimo non avere tanti proseliti nella critica. Per quale motivo credi che appunto il telefilm sia sempre considerato un po' arte minore, per quanto in molti esempi lo possa certamente essere? Guarda, io credo che sia, ti dico la verità, un fatto esclusivamente generazionale. Io ho dei figli, ho una figlia di 15 anni e un figlio di 13, e credo che per loro non sia assolutamente il prodotto seriale non venga da loro considerato in nessun modo un prodotto di serie B o inferiore a un film. E credo che questo sia molto comune alle nuove generazioni, che sono nate masticando i telefilm con anche le reti, diciamo, più dedicate a loro, come possono essere MTV o il Music, insomma le reti che sono molto legate al mondo dei teenagers, hanno comunque una parte loro palinsesto che ormai è sempre più legato al prodotto seriale, magari non di fiction, seriale, perché sono manga, hentai o cartoni americani, ma comunque il concetto di serialità è un concetto che loro hanno metabolizzato credo la prima volta che hanno con consapevolezza guardato la televisione. Quindi credo che sia un problema forse delle generazioni over 50, che hanno sempre vissuto il telefilm come il prodotto di serie B e il prodotto di serie A, il cinema o il grande varietà. Io ti dico, mi sento un po' atipico, perché mi ha sempre affascinato il prodotto seriale, nel senso che poi il prodotto seriale anche non è necessariamente un prodotto solo televisivo. La serialità, per esempio, del fumetto mi ha sempre affascinato, come alcune serialità del cinema, insomma. Inutile negarci che, certo, con un budget diverso da qualunque telefilm ha fatto fino ad oggi, ma Guerre Stellari è una serie, così come è stata una serie James Bond. Certo, per quanto possano avvicinarsi, perché penso solo a una serie come Lost, a livello di costi di produzione, non credo sfori di tanto quelli di una produzione cinematografica. Vado solo a pensare al fatto che c'era stato grosso scandalo durante la registrazione dell'episodio pilota di Lost, in quanto episodio più costoso della storia della televisione, credo per un costo di 14 milioni di dollari. Infatti il produttore deve essere stato silurato all'epoca per aver commissionato tale pilota. Beh, cioè, tieni conto che un film in Italia si produce, come credo tu sappia bene, con 6-8 milioni di dollari, di euro, già si produce un film che ha aspirazioni di botteghino, è ovvio che i mezzi che può mettere la televisione americana con la vendita in tutto il mondo sono dei mezzi che in Europa, oddio, fammi dire, in Italia sono inconcepibili, in Europa grazie alla produzione, soprattutto anglosassone, qualcosina francese, anche se altri attori si stanno affacciando come i paesi scandinavi, comincia a diventare possibile, perché per esempio le nuove produzioni della BBC che si vedranno l'anno prossimo, che sono Torchwood e Primeval, cominciano ad avere dei budget da seconda fascia di serie americane, ma questo perché? Perché sono serie che poi loro riescono a vendere negli Stati Uniti. È la prima volta, credo, che in Inghilterra si affrontino questi budget, perché penso alle produzioni più recenti tipo Black Books, My Life in Film, erano tutte comunque serie parecchio economiche, credo. Sì, beh, gli inglesi hanno sempre molto giocato sul fatto che loro potessero vendere le idee, e devo dire che alla fine ci riescono, sì, perché The Office alla fine è un produttivamente, sì, cioè produttivamente è molto semplice, ci sta dietro uno script che è una cosa strepitosa. Però loro sono sempre un po', come dire, venduto l'idea, i concept, tant'è vero The Office è così piaciuto negli Stati Uniti che Pronti Via l'hanno rifatta tale quale, e tra l'altro l'hanno rifatta anche bene, devo dire, perché è un prodotto assolutamente gradevole. Ma è difficile ormai essere competitivi rispetto a questa economia della serialità degli Stati Uniti. Io onestamente credo che l'unica possibilità che vedo da un punto di vista di energie e risorse produttive possa essere nei prossimi anni quella che viene dai paesi dell'est, in particolare dalla Russia. Cioè, io sto un po' monitorando il mercato russo, sono ancora molto grezzi su alcune cose, un po' troppo cinematografici, ma lì c'è gente di gran mestiere, c'è gente che vuole investire, ci sono grandi risorse, non hanno paradossalmente bisogno degli effetti speciali, cioè se devono fare una scena con 1000 comparse non devono moltiplicarla in digitale, ma chiamano 1000 persone, che costa meno. E quindi secondo me nel giro di 10 anni potrebbero giocare la loro carta ed essere competitivi. Dove per competitivi io non dico essere competitivi perché creeranno un mercato differente, alternativo, perché così come è successo con Vancouver, dove per una mera ragione di costi si è spostata la produzione di più del 20% della serialità americana, potrebbe essere che nei prossimi anni una percentuale ancora maggiore si sposti nei paesi dell'est, cominciando a utilizzare registi, sceneggiatori, eccetera, di quei paesi. Ne sono abbastanza convinto perché i prodotti che fino ad oggi si sono visti che vengono dai paesi dell'est, per essere, come dire, un po' ancora nella fase preistorica, chiamiamola, nell'età del bronzo della serialità dei paesi dell'est, beh, insomma, ci siamo quasi, lascio sperare molto bene. Chiedo un'ultima cosa, chiedo di introdurre e di presentare i nostri ascoltatori per chi non lo conoscessero, Jimmy e la sua programmazione, il modo in cui affronta sia il mondo della serialità che il mondo dell'intrattenimento televisivo in generale. Ma dunque, allora, come ogni canale, dunque Jimmy non è un canale solo di serie, anche se è un canale che ama molto le serie e ne trasmette tante. Ed è un canale che ovviamente ha dovuto fare i conti con un'offerta televisiva, soprattutto su satellite, che negli ultimi anni è cresciuta in maniera quadratica, perché insomma ricordiamo che nel 97, quando è nato Jimmy, c'erano tre reti che facevano serie, che erano Jimmy, Duel TV e Happy Channel, e oggi credo che ce ne siano una quindicina, forse anche di più. Allora, la differenziazione è innanzitutto una differenziazione di modo con cui si offre il prodotto. Diciamo che i canali Fox sono un po' il supermercato del meglio delle serie, e Jimmy vuole essere un po' di più il concept store, dove trovi sì la cosa di marca, ma trovi anche la cosa un po' particolare, un po'... Noi facciamo un grande lavoro di scouting, programmiamo molte serie, per esempio diciamo le serie russe, siamo stati i primi a programmare una serie russa, serie inglesi, francesi, canadesi, ultimamente per esempio col mercato del Canada abbiamo lavorato molto, però trasmettiamo anche le grandi serie americane come Nip Tuck, piuttosto che il World, piuttosto che Babylon 5 o Star Trek Enterprise e così via. Il lavoro che a noi è piaciuto fare, ma anche per nostro divertimento nella fase iniziale del canale, che poi è proseguito, è stato quello di guardarci un po' nello specchio della nostra memoria, di dire, vabbè, ma io quando ero piccolo, quando proprio la televisione mi prendeva, che restavo con il filo di Nutella che mi colava dalla bocca e il panino in mano, con lo sguardo evita a guardare il televisore, cosa guardavo? Quanto mi piaceva guardare Il Prigioniero. Esatto, quanto mi piaceva guardare Il Prigioniero, Spazio 1999 o La Famiglia Adams o Attenti a Quei Due. E da lì è nato un lavoro di recupero, che è stato di recupero anche qualitativo, perché ovviamente c'è un'aspettativa da parte del pubblico di livello qualitativo oggi che è diversa da quella che avevamo noi. Però un po' alla volta, selezionando e tagliando delle cose che poi alla fine abbiamo deciso che era meglio restassero per nostra unilaterale decisione dentro la nostra memoria senza essere riviste, perché sennò, come dire, perdevano la loro aurea mistica e mitica. Però abbiamo fatto tutto questo lavoro di recupero sul passato, l'abbiamo rincasellato facendo anche dei giochini, per cui Fame l'abbiamo fatto alla stessa ora in cui andava su Rai 2, piuttosto che Spazio 1999 alla stessa ora in cui andava su Rai 1 dopo la TV dei ragazzi, ma sono stati dei giochi che però in qualche modo ci hanno anche premiato, perché poi noi che quando abbiamo cominciato a fare il canale avevamo 35 anni, adesso ne abbiamo 45, non siamo soli, insomma siamo in tanti a condividere questa cultura e questa memoria generazionale. Quindi è un canale che gioca molto sul fatto di in qualche modo riattualizzare alcuni dei miti del passato, ma anche di esplorare e capire quali sono i reali miti del presente. Per cui alcune serie di grande successo, anche, sembra la classica dichiarazione ideologica, no, però ci sono delle serie importanti che Jimmy ha avuto la possibilità di avere, ma che non avevano nessun senso su Jimmy. Cioè Veronica, certo. Mars è una serie che su Jimmy per me non ha nessun senso. Mi hai offerto un collegamento meraviglioso per le ultime due domande che volevo farti, che sono: qual è la serie che ti rende più orgoglioso aver trasmesso su Jimmy, e qual è il tuo più grosso rimpianto, quindi la serie che non sei riuscito a portare su Jimmy? Domanda difficilissima questa, questa è una roba di quelle durissime, perché fatta apposta. Allora, la serie di cui sono più orgoglioso, no, diciamo che sono diviso fra il fatto di aver riportato, credo, sicuramente tutto Star Trek, ma tutte le serie di fantascienza più importanti, di essere riuscito a trasmetterle nell'ordine giusto, con la maggior qualità possibile, includendo anche frammenti e brani che erano stati tagliati dalle edizioni italiane. Questo lo dico perché, da amante della fantascienza, sono uno di quelli che aveva sofferto come una bestia vedendo come venivano trattati da Rai e Mediaset le serie di fantascienza trasmesse alle 3 del mattino senza nessuna logica, senza eccetera. Ordine. Però se devo dirti un prodotto che una cosa che mi ha in qualche modo inorgoglito è stato che fra i vari telefilm così recuperati dalla nostra, dal nostro passato e rispolverati i Thunderbirds, di cui io da piccolo ero innamorato, e qua tutti mi hanno detto ma dai, Super Mario Nation, ma sveglia, ti smetti di fare ragazzino. Dopo 3 mesi che lo mandavamo in onda noi, l'ho visto improvvisamente comparire alle 23.45 di Italia 1 facendo il 16% che parecchio di share. Quindi ho detto, beh, insomma, allora, come dire, non sono solo. Il grosso rimpianto? Beh, rimpianti sicuramente tanti, perché un rimpianto ce l'hai ogni anno. Ogni stagione ovviamente c'è qualcosa che non riesci... che non riesce a... ma devo dire che alla fine è una serie in cui ho creduto dal momento in cui ho visto la sceneggiatura, nel momento in cui ho visto il primo trailer con un'attrice che si chiamava Jessica Alba, che nessuno conosceva, e che era, sto parlando ovviamente di Dark Angel, e di non essere riuscito a prenderlo, perché poi lì, come dire, quando si muovono le generaliste, sì, noi siamo fuori dal gioco. Quello proprio mi è dispiaciuto un sacco, perché è una cosa, come dire, che ho visto nascere, che dal primo momento ho detto questa è una figata pazzesca, andrà benissimo. E questa qua, non so se si può dire nella trasmissione, ma lo dico, è una figa spaziale. diciamolo, no? Quindi ho detto, ci sono, come dire, 2 dei 3-4 ingredienti fondamentali c'erano, quindi non può andare male. E quella, vabbè, è andata. È andata bene, ma purtroppo noi non l'abbiamo neanche sfiorata. Ok, faccio l'ultima domanda difficile, poi non ti faccio più perdere tempo, che sono, sì, è ancora più difficile forse, le 3 serie preferite e in qualche modo in anteprima, per chi ci può ascoltare, nominami altre 3 serie che credi possano arrivare in Italia e di buon livello qualitativo. Allora, le 3 serie, dunque, le mie 3 serie preferite metto sicuramente come prima assoluta Twilight Zone, perché Twilight Zone secondo me è al di là di qualunque giudizio del bene o del male. Queste sono quelle classiche domande che uno dovrebbe avere pronte, esatto, in tasca, sì. Allora, diciamo, vabbè, ti dico 3 serie, vabbè, allora, Il confine della realtà, Twilight Zone sicuramente, poi metterei Samurai, quella, vabbè, giapponese, che andava in onda di notte su Italia 1, e poi più che mettere se ti metto una cosa strana, che è Cop Rock, perché secondo me è un esperimento fra i più belli e più coraggiosi che abbia mai visto. Bene, le 3 serie di cui credi sentiremo più parlare, magari quelle appena uscite nella nuova stagione americana o non solo. Allora, nuove serie. Dunque, io credo che andrà molto bene dal punto di vista della critica. Aspetta, che adesso mi devo ricordare bene il titolo. Oh madonna, com'è? Studio 60 e un Sunset Strip. Che è molto carina, secondo me, anche se pare essere a rischio di taglio, sbaglio? Beh, ormai è tutto a rischio di taglio, però diciamo che ha avuto degli alti e bassi, e secondo me quella è veramente una serie, perché ci sono delle serie che magari non... in qualche modo aprono un po', spostano un pochino i paletti del modo comune di concepire la televisione, cioè inventano dei segmenti di linguaggio, inventano dei sistemi per trattare la sceneggiatura, e quindi secondo me quella è una serie veramente, io ne so, abbastanza... diciamo, una di quelle che mi piacerebbe avere. Secondo me andrà molto bene Heroes, sì. E credo che stia andando molto bene. Mi lascia un po' perplesso Prison Break, su cui si fa un gran parlare, però secondo me corre il rischio, secondo me, di diventare un po' troppo ripetitivo. Jericho, concordi con me che è mostruoso? Jericho è una roba invedibile, però, però è perfetto per il mercato americano, perché c'è la frontiera, c'è dentro Bonanza, c'è aiuto, siamo circondati, dobbiamo organizzarci da soli. Teoria del terrore, eccetera. Ma una cosa molto bella, ti posso dire, che non vedremo in Italia è Master of Horror. Non la vedremo in Italia perché è il classico prodotto che in America mi pare che va su Showtime, è prodotto stravietato ai 18, che qui non... Sì, ma è troppo caro per le TV tematiche e c'è il problema del divieto ai 18 per le TV generaliste. Poi, se dovessi dirti un'altra serie che è in onda adesso... Ah, vabbè, scusami, ma abbiamo parlato solo dei drama, ci siamo dimenticati delle sitcom. Vabbè, questa non è una novità, Everybody Hates Chris, però... diciamo, nelle tre ce la metterei sicuramente. Bene, ti ringrazio molto, è stato un assoluto piacere. Spero anche per me. Non averti fatto perdere troppo tempo. E ti saluto, buona giornata e risentirci. Grazie, un saluto a tutti. Questa dunque è l'intervista a Giusto Toni. Per chi volesse approfondire il lavoro di Giusto Toni in televisione, vi consiglio il sito di Canal Jimmy, raggiungibile www.jimmy.tv. Se siete in possesso di un abbonamento a Sky, invece, Jimmy lo potete vedere al canale numero 140 del Bouquet Mondo. Se avete particolarmente gradito il tema della serialità televisiva, vi offro una piccola anticipazione. In uno dei prossimi episodi di Licenza Media potrete ascoltare un'intervista realizzata a Jack Bender, uno dei principali registi nonché produttore esecutivo del popolarissimo show televisivo Lost. Ho avuto modo di incontrare Bender un paio di settimane fa a Roma nel corso di un convegno che il regista americano ha realizzato per il corso di sceneggiatura Rai Script. Bene, siamo giunti al termine di questo primo episodio di Licenza Media. Spero che vi abbia divertito, spero che il risultato sia stato interessante. Ringrazio nuovamente i tre intervistati di questo episodio, ovvero Frida Brioschi, Stefano Ferrio e Giusto Toni. Vi lascio nuovamente le coordinate per raggiungere Licenza Media Podcast, ovvero il sito internet licenzamedia.blogspot.com e l'email attraverso la quale comunicare, ovvero licenzamedia@gmail.com. Vi ringrazio nuovamente per essere stati qui con me. Appuntamento al prossimo episodio di Licenza Media e a presto! Peace out.